Italia in controluce. 5 giugno, Italia in controluce, i processi di Berlusconi e la tenuta del governo. Perché a nostro avviso è la giustizia, alla fine, il vero punto debole del governo a guida Enrico Letta. La tenuta dell'esecutivo e della maggioranza di larghe intese è appesa al filo dell'esito dei processi che coinvolgono da tempo il leader del PDL Silvio Berlusconi, ma ormai stanno andando in conclusione. Perché? Tra pochi giorni ci sarà l'attesa sentenza del processo Ruby e solo ieri, nelle motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Milano condannava Berlusconi al processo Unipol, è scritto che la pubblicazione della telefonata tra Fassino e consorte era stata decisa proprio da Berlusconi. Allora, secondo voi, 349-238-6666, quale deve essere la linea che deve tenere Berlusconi? Contro i magistrati, quindi un Berlusconi di piazza, di lotta nelle piazze, oppure un Berlusconi statista, che è quello che vedo anche in queste ore, che chiede un presidenzialismo e, anche se avverte l'Unione Europea, basta diktat al governo, cioè un Berlusconi che guarda al governo del paese un po', non se ne importa, fa finta che i processi non ci siano, oppure invece questi processi potrebbero travolgere lui e quindi poi anche il governo. 349-238-6666, siamo in collegamento con il nostro Andrea Viali. Sì, Daniele, in effetti il futuro del governo Letta, sembra sempre più legato agli sviluppi dei vari processi che riguardano Silvio Berlusconi. Di questo si è parlato, a quanto trapela, anche ieri sera in un vertice del Popolo delle Libertà a Palazzo Grazioli. Qualche ora prima, lo ricordavi, erano arrivate le motivazioni della sentenza Unipol, sempre a giugno. Poi ci sono anche altre importanti scadenze che riguardano sempre le vicende giudiziarie del Cavaliere, non soltanto tanto la sentenza di primo grado del processo Ruby, ma qualche giorno prima anche l'attesa pronuncia della consulta sul legittimo impedimento che era stato chiesto nel processo sui diritti TV Mediaset, che è un processo, lo ricordiamo, nel quale ad ottobre Berlusconi, il Cavaliere, potrebbe essere condannato in via definitiva dalla Cassazione e per lui in questo caso scatterebbe anche l'interdizione dai pubblici uffici, cioè in pratica, Daniele, si realizzerebbe quel tentativo di farlo fuori per via giudiziaria che da anni, direi, è denunciato dal PDL. Quindi per metterlo al riparo da questo rischio nel partito, a quanto trapela, si sta ragionando anche sull'ipotesi di far cadere proprio il governo Letta per andare al voto anticipato in autunno, perché naturalmente sperando di vincere poi nelle elezioni in autunno, perché a quel punto Berlusconi potrebbe innescare un conflitto di attribuzioni che sarebbe in realtà un evento unico nella storia della Repubblica, e potrebbe farlo però come Presidente del Consiglio, quindi trattando, diciamo, da una posizione molto più forte rispetto a quella di oggi. Poi ci sono anche i falchi del PDL che addirittura non escrivono anche altre forme estreme di protesta. È il caso di Daniela Santanchè, che ieri sera è arrivata addirittura a minacciare uno sciopero fiscale da parte di tutti gli 8 milioni di elettori del PDL che hanno votato Berlusconi, un sciopero nel caso appunto di una condanna di Berlusconi. Daniele. Sì, intanto oggi, dicevo, Berlusconi elogia il governo Letta, dice ha chiuso una guerra civile, ammesso che ci sia mai stata una guerra civile nel nostro paese, e ora il presidenzialismo. Cosa ha detto Silvio Berlusconi? In questa intervista rilasciata al TG di T9, in onda questa sera alle 19, dice Berlusconi che è importante che ci siano le due parti che sostengono il governo e che possano varare la riforma della Costituzione, che possa portare il nostro Paese alle elezioni dirette del Capo dello Stato e poi un primo ministro che abbia gli stessi poteri dei suoi colleghi delle altre democrazie occidentali. Continua Berlusconi dicendo che siamo riusciti a mettere insieme il centrodestra e il centrosinistra ponendo fine ad una lunga guerra fredda, cioè dice ad una guerra civile. Abbiamo un governo forte che può fare le riforme e che una sola parte non poteva fare. Poi ci sono i vostri sms che sono tantissimi. Vorrei parlare di politica, riforme, etica. Basta parlare di Berlusconi, a fare i suoi processi, noi abbiamo altri problemi, scrive Corrado da Como. La legge deve essere uguale per tutti. Ci ricorda Nicola, basta Berlusconi, Patrizio da Pistoia, che dica a qualcuno di spina dorsale, che dica a Berlusconi di farsi da parte e prende in mano la destra. Probabilmente nessuno è in grado, perché l'Italia si stabilizzerebbe. Se Berlusconi amasse davvero l'Italia lascerebbe la politica, perché inadatto, essendo causa unica di divisione di blocco, dice un certo Mario. C'è chi appunto si è rotto le scatole di parlare di Berlusconi e dice che la legge, si domanda se ancora la legge è uguale per tutti. C'è chi invece lo difende e dice che bisogna oramai, che Berlusconi deve sempre di più andare verso uno scontro sempre più duro con magistrati faziosi e politicizzati. 349 238 6666. Intanto Berlusconi con questa T9, che è un'emittente romana, ha poi parlato anche del ballottaggio per l'elezione tra il sindaco Alemanno e Marino, e ricorda di aver avuto una riunione con il nuovo ministro degli interni Alfano e Gianni Alemanno, in cui si è deciso di comune accordo tra i due di dare il via alla poliziotto e carabinieri di quartiere, anche all'utilizzo dei militari nelle periferie. Dice l'ex premier, rilanciando una sua promessa elettorale che però di fatto non è mai stata, per varie ragioni, mantenuta. Ma la cosa più importante che dice oggi Berlusconi è il rilancio del presidenzialismo. Vi chiediamo se, alla luce di quello che abbiamo visto e letto in queste ore sui processi di Berlusconi, il governo è saldo oppure resta appeso al filo dei suoi processi. Un altro ascoltatore, che è Marco da Ponte Cagnano, dice che Berlusconi mantiene l'Italia in balia dei suoi processi, mentre l'Italia muore, continua Marco da Ponte Cagnano. Ci prende in giro da 20 anni. Se fossi un elettore della destra mi vergognerei di avere Berlusconi come leader, scrive Davide da Mantova. E c'è chi invece però dice sostanzialmente che Berlusconi deve continuare con la lotta alla magistratura e scendere in piazza. Ce ne sono diversi di sms che sono arrivati su questo tono. Ce n'è uno che secondo me vale per tutti: più lo massacrano e più lo amiamo, ed è quello che penso anch'io. Cioè, io penso che questo continuo, diciamo, parlare di processi di Berlusconi, di parlarne nel modo con cui se ne è parlato fino ad oggi, senza mai entrare nello specifico, io parlo da una parte e dall'altra, ha fatto sì che poi Berlusconi in qualche modo si sia rafforzato. E i dati non escludono questo, anzi confermano quello che sto dicendo. Sono le 13.43, io vi ricordo che questa era Italia in controluce, vi ricordo che tutti i giorni andiamo in onda alle 13.30 e vi raccontiamo prevalentemente la politica, ma non solo, diciamo il fatto del giorno, e che potete scriverci a controluce@radio24.it oppure andare su Facebook Radio 24 in controluce, oppure andare su Twitter. Abbiamo e avete molte possibilità per comunicare con noi. A domani, stessa ora, stessa radio.